che per spendere e comprare. Ti domandi al nuovo giro di giostra dove sta, dove si trova la felicità. La solitudine ti porta a spasso come un cane che latra per la via. Che fuori piove in inverno alle 6 di sera, chi vuoi che passa ti tocca in casa. Il riflesso della luna in una pozza di acqua scura, tu fumi e ci sputi su. Vanno le dame, stanno al passo col tacco alto a fare compere. Tra le vetrine, sulla via di casa, al gran boulevard, sotto le luci elettriche. E passo dopo passo sei già fuori, nella periferia della città, dove sotto al faro di un lampione ci sta l'amore che vende quel che ha. Il